fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E buonasera ragazzi, noi siamo nel confessionale di Grande Sorella in compagnia di un grandissimo ospite che si chiama Enrico Marchioro. Enrico, ciao Enrico. Ciao, allora, tutti. Innanzitutto cosa ci fai qui al convento? Allora ragazzi, domanda molto facile, sono qui con i miei amici per festeggiare il celibato di un mio amico che va a sposarsi il 29 di luglio. Ah, allora tu sei l'amico di quelli che sono appena usciti? Sì, esattamente, sono proprio l'amico loro. Ah, bene, bene, bene. Quindi sei sveglio anche tu da abbastanza... Da un po' di tempo, sì. Mi hanno detto dalle 8:30 avete preso, sì, lo sposo? Sì, in realtà abbiamo preso lo sposo alle 8 e poi siamo partiti qui alla volta del Garda e da qua è iniziato tutto fino ad arrivare tutta qua. La festa? Sì, sì, sì. E cosa fai di bello nella vita? Allora, nella vita faccio il progettista meccanico. Wow! Quindi disegno macchine confezionatrici particolarmente. E poi ho vari hobby, sport, chi più. Un lavoro abbastanza complesso, eh? Sì, sì, sì, dai, non ci annoiamo, ci sta. Devi sapere tantissime cose, cioè chi è ignorante in materia per me è una cosa... Secondo me ogni pane ha la sua crosta, come si dice. È vero, è vero, è vero, hai pienamente ragione. Non mi sento né un fenomeno né quant'altro, giustamente... Vabbè, però hai le tue doti. Sì, dai. Altrimenti non facevi il lavoro. Altrimenti non facevo quello, esatto. Esatto, esatto, esatto. Quindi vieni anche tu da Vicenza? Assolutamente sì, cara. Ho una buona memoria. Eh sì. Ma dimmi una cosa, ma stasera qui fuori chi è che ti ha colpito di più? Allora, non come estetica, ma come, diciamo, stranezza. Facciamo così. Allora, io devo spezzare una lancia a favore della fotografa. Va bene. No, che mi, stranamente mi non la conosco. Mi hai sorpreso per... avevi una magneticità particolare e quindi mi hai sorpreso per quello. Mi fa piacere, grazie. Ecco. Non sta parlando di me assolutamente, assolutamente sta parlando della fotografa della serata, che non sono io, ve lo giuro. Diciamo così, va. Dimmi una cosa, invece, come ragazze, come costumi, cosa hai notato di strano stasera qui fuori, in questa gabbia? Allora, devo essere onesto, a me è piaciuto moltissimo l'ambiente, perché non c'era un atteggiamento sopra le righe, ma c'era un bel rispetto tra tutti e tutti si sono divertiti, tutti quanti ballavano, tutti quanti volevano far festa, c'erano di annubilato, il celibato, quindi... Però tutto nel massimo rispetto, quindi è stato tutto super. Ed è così che ci bisogna divertirsi. Sì, sì, ti dico la verità, sì, veramente, è stata veramente una bella cosa e veramente lo consiglierei a tutti perché mi ha sorpreso veramente in positivo. È la prima volta che vieni? Assolutamente sì, però ci tornerò, sono sicuro. Ah, per il tuo matrimonio? Ah, mai si sa, ci potrebbe stare, non so. Dai, quando sarà? Più o meno una data? Domande difficili adesso. Ma c'è una lei? Sì, c'è una lei. Vabbè, c'è almeno una lei, c'è una lei. C'è una santa più che altro. Immagino, grande santa secondo me. No, è una bravissima ragazza, dai, super. No, però sono venuto qua, è stata una figata, mi sono divertito un sacco. Lui fa parte della tua compagnia, io sono sicurissima. Sì, sì, sì, siamo veramente degli scoppiati. Ed è Simone o Manuel? Simone. Mi sto imparando i nomi. Allora, stasera. Simone fa praticamente al centro di lavoro, invece Manuel è un'infermiera. Infermiera, quindi, è buona a sapersi. Sì, infatti fa sempre bene avere un infermiera per una siringa, cioè, una cosa. Può sempre servire. Proprio, sai, hai mai qualcosa, lo chiami prima del medico, dici scusa, ho male un po' qua. Tu mi consigli? È un premedico per gli amici. È un premedico, esatto. Esatto. È giusto, è giusto. Allora, io facciamo una cosa. Io ti lascio divertire lì fuori perché tra un po' finisce la serata. Ci sta. Ti faccio finire, diciamo, la serata al meglio con gli ultimi rimasti e ti auguro una buona serata. Ma io direi di sì. Che e dici, ti Enrico? Ringrazio, è stata veramente una piacevolissima serata, spero si ripeterà e un buon ascolto a tutti. Grazie della serata, grazie a tutto. Grazie, un bacio Enrico, va bene? Un bacio. Ciao Enrico, ciao.